Capitolo 19. Passarono alcuni giorni e Catherine, benché si rifiutasse di nutrire sospetti verso l'amica, non poté fare a meno di osservarla attentamente. Quello che vide non le piacque. Isabella pareva essere diventata un'altra persona. In effetti, quando la vedeva circondata solo dai suoi amici più intimi, agli Edgar's Buildings o a Pulteney Street, il cambiamento dei suoi modi era così impercettibile che se si fosse trattato solo di quello avrebbe potuto passare inosservato. A volte mostrava una certa languida indifferenza o si proclamava vittima di una certa qual sbadataggine che per Catherine erano completamente nuove, ma tutto questo, se non ci fosse stato niente di più grave, sarebbe solo servito a donarle nuova grazia e a renderla più interessante. Ma quando Catherine la vedeva in pubblico accettare le premure del capitano Tilney con la stessa prontezza con cui gliele offriva, e quasi dividere in parti uguali la sua attenzione e i suoi sorrisi tra lui e James, allora il cambiamento diventava troppo evidente per poterci passare sopra. Cosa volesse dire questo comportamento volubile? A che cosa mirasse l'amica? Era al di là della comprensione di Catherine. Isabella poteva non rendersi conto del dolore che infliggeva, ma c'era anche un pizzico di crudeltà nella sua leggerezza che Catherine non poteva fare a meno di avvertire. Chi ne soffriva era James. Lei lo vedeva triste, a disagio, e per quanto la donna che gli aveva donato il suo cuore potesse essere incurante della sua serenità, per lei invece quella serenità rimaneva sempre importante. Era anche molto preoccupata per il povero capitano Tilney. Benché come individuo non le piacesse, il suo cognome era un passaporto alla simpatia di lei e pensava con sincera compassione alla delusione alla quale andava incontro. Infatti, nonostante quanto le era sembrato di afferrare nella pump room, il suo comportamento era così incompatibile con il fatto che gli sapesse del fidanzamento di Isabella che Catherine, dopo avervi riflettuto, non riusciva a immaginare che l'altro ne fosse a conoscenza. Era probabilmente geloso di James come di un rivale, e se le era parso che ci fosse dell'altro, la colpa doveva per forza essere la sua, che aveva capito male. Avrebbe voluto richiamare gentilmente Isabella, ricordandole la sua posizione e farle notare che si comportava in modo scorretto verso due persone, ma per una simile rimostranza o non si presentava l'occasione o non veniva capita. Se riusciva a insinuare qualcosa, Isabella non capiva mai. In questo stato di turbamento, la prossima partenza della famiglia Tilney diventò la sua principale consolazione. Sarebbero partiti per il Gloucestershire entro pochi giorni e l'allontanamento del capitano Tilney avrebbe almeno riportato la pace in ogni cuore, eccetto forse che in quella di lui. Ma per il momento il capitano Tilney non aveva nessuna intenzione di farsi da parte. Non li avrebbe accompagnati a Northanger, sarebbe rimasto a Bath. Quando Catherine lo seppe, prese immediatamente una decisione. Parlò dell'argomento a Henry Tilney, rammaricandosi per l'evidente predilezione del fratello per la signorina Thorpe e invitandolo a rendergli noto il precedente fidanzamento di lei. Oh, ma mio fratello lo sa, fu la risposta di Henry. Lo sa? E allora perché resta qui? Egli non replicò. E stava incominciando a parlare di qualcos'altro quando Catherine continuò vivacemente: Perché non lo convincete ad andarsene? Più a lungo rimane, peggio sarà per lui in seguito. Vi prego, consigliategli per il suo bene, il bene di tutti, di lasciare immediatamente Bath. Con il tempo e la lontananza ritroverà la sua serenità, ma qui non ha speranze, rimane solo per essere infelice. Harry sorrise e disse: Oh, sono certo che mio fratello non desidera una cosa simile. E allora lo convincerete ad andarsene? La persuasione non è una cosa a comando, rispose Harry. Ma perdonatemi, non posso nemmeno cercare di convincerlo. Gli ho detto io stesso che la signorina Thorpe è fidanzata. Sa che cosa sta facendo e deve decidere da solo. No, non sa che cosa sta facendo, esclamò Catherine. Non sa il dolore che sta procurando a mio fratello. Non che James me l'abbia mai detto, ma sono certa che è molto infelice. E siete sicura che la colpa è di mio fratello? Sì, sicurissima. Ma sono le attenzioni di mio fratello verso la signorina Thorpe o il fatto che la signorina Thorpe le accetti a ferirlo? Non è la stessa cosa? Credo che il signor Morland riconoscerebbe che c'è una differenza. Nessun uomo si offende perché un altro uomo ammira la donna che gli ama. Solo la donna può farne un tormento. Catherine arrossì per l'amica e disse: Isabella sbaglia, ma sono sicura che non è nelle sue intenzioni tormentare mio fratello, perché gli è molto affezionata, si è innamorata di lui fin dalla prima volta che l'ha visto, e quando il consenso di mio padre era ancora incerto, lei si è tanto angustiata da farsi quasi venire la febbre. Vedete dunque che deve per forza volergli bene. Capisco. È innamorata di James e civetta con Frederick. Oh, no, non civetta. Una donna che ama un uomo non può civettare con un altro. Probabilmente non amerà né civetterà bene come potrebbe se si dedicasse a una sola delle due attività. Tutti e due i signori dovranno rinunciare a qualcosa. Dopo una breve pausa, Catherine così riprese: Voi dunque non credete che Isabella voglia davvero bene a mio fratello? Non posso avere un'opinione su questo argomento. Ma a cosa mira vostro fratello? Se sa che è fidanzata, cosa può significare il suo comportamento? Siete molto insistente con le vostre domande. Io? Chiedo solo quello che voglio sapere. E siete certa di chiedere anche solo quanto posso effettivamente dirvi? Sì, credo di sì, dovete pur conoscere il cuore di vostro fratello. Oh. Vi assicuro che in questa occasione, per quanto riguarda il cuore di mio fratello, come voi lo chiamate, posso solo tirare a indovinare. Ebbene? Ebbene, su via. Se dobbiamo tirare a indovinare, indoviniamo con la nostra testa. È sciocco lasciarsi guidare da congetture di seconda mano. Le premesse le avete davanti a voi? Mio fratello è un giovanotto vivace, forse a volte leggero. Conosce la vostra amica da circa una settimana, più o meno da quando la conosce sa anche che è fidanzata. Bene, disse Catherine dopo aver riflettuto qualche minuto. Da tutto questo forse voi potrete indovinare le intenzioni di vostro fratello. Io no di certo. Ma questa situazione non mette a disagio vostro padre? Non preferirebbe anche lui che il capitano Tilney se ne andasse? Certamente se gli parlasse vostro padre, lui se ne andrebbe. Oh, mia cara signorina Morland, disse Harry. Nella vostra squisita preoccupazione per la serenità di vostro fratello, siete certa di non fare un po' di confusione? Di non lasciarvi un po' trasportare? Pensate che lui vi ringrazierebbe per sé, per la signorina Thorpe, se sapesse che per voi la sicurezza dell'affetto di lei, o almeno la sua buona condotta, dipendono solo dal non vedere il capitano Tilney? Vostro fratello è dunque al sicuro solo se non c'è nessun altro? O forse il cuore di lei rimane suo solo finché nessun altro la corteggia? Egli non può pensare questo. E potete star certa che non vorrebbe neppure che voi lo pensiate. Non vi dirò, non preoccupatevi, perché so che in questo momento per voi è inevitabile, ma preoccupatevi il meno possibile. Voi non nutrite nessun dubbio riguardo al reciproco affetto tra vostro fratello e la vostra amica. Confidate dunque nel fatto che non ci può essere vera gelosia tra di loro, che nessuno screzio può essere di lunga durata. Ognuno di loro conosce il cuore dell'altro, più di quanto sia dato a voi di conoscerlo. Ognuno sa esattamente cosa l'altro gli chiede e quanto può sopportare. E potete esser certa che nessuno dei due tormenterà mai l'altro più di quanto sa che per l'altro sia piacevole. E rendendosi conto che lei sembrava ancora triste e dubbiosa, aggiunse: Anche se Frederick non lascia Bath con noi, probabilmente rimarrà ancora per poco, forse solo per qualche giorno. La sua licenza scadrà presto e dovrà tornare al suo reggimento. E che ne sarà allora della loro amicizia? Per 15 giorni alla mensa si brinderà a Isabella Thorpe e lei per un mese riderà con vostro fratello delle passioni del povero Tilney. Catherine smise di controbattere e si lasciò infine consolare. Per tutto il tempo della discussione aveva resistito a questa tentazione, ma ora dichiarava la resa. Certamente Harry Tilney poteva giudicare meglio di lei, biasimò se stessa per le proprie eccessive paure e decise di non prendere più tanto sul serio la questione. Questa decisione fu confortata dal comportamento di Isabella nel loro incontro prima che Catherine partisse. I Thorpe passarono a Pulteney Street la sera precedente alla partenza e tra i due innamorati non accadde niente che potesse risvegliare le paure di Catherine o per cui dovesse lasciarli con animo inquieto. James era di ottimo umore, Isabella dimostrava la più seducente serenità. Sembrava che il sentimento preponderante nel suo cuore fosse l'affetto per l'amica. Ma ciò, in quel momento, era comprensibile. È vero che una volta contraddisse bruscamente il fidanzato e un'altra ritirò la mano da quella di lui, ma Catherine ricordò gli insegnamenti di Harry e attribuì tutto al loro modo di volersi bene. Gli abbracci, le lacrime e le promesse delle due belle al momento della separazione si possono facilmente immaginare. Capitolo 20. Ai signori Allen dispiaceva perdere la loro giovane amica, che il buon umore e l'allegria avevano reso una piacevole compagna, tanto più che, cercando di far divertire a lei, spesso si erano discretamente divertiti anche loro. Ma la felicità di Catherine di partire con la signorina Tilney era tale che non potevano desiderare diversamente, e visto che dovevano restare a Bath solo poco più di una settimana, non ne avrebbero comunque sentito la mancanza troppo a lungo. Il signor Allen l'accompagnò a Milsom Street, dove era stata invitata per la prima colazione, e aspettò di vederla seduta al tavolo dei suoi nuovi amici, che l'accolsero con le frasi più gentili di benvenuto. Ma Catherine era così agitata all'idea di vedersi trattata come una della famiglia e temeva così tanto di sbagliare, di non saper conservare la buona opinione che gli altri avevano di lei, che nell'imbarazzo dei primi 5 minuti avrebbe quasi voluto tornare con il signor Allen a Pulteney Street. I modi della signorina Tilney e il sorriso di Harry scacciarono presto alcune di quelle spiacevoli sensazioni, eppure Catherine era ben lontana dal sentirsi a suo agio. Nemmeno le incessanti attenzioni del generale Tilney riuscivano a rassicurarla completamente. Anzi, per quanto sembrasse un'idea folle, si chiedeva se forse non si sarebbe sentita meno in imbarazzo se ne avesse ricevute di meno. L'ansia del generale per il suo benessere, le sollecitazioni continue perché mangiasse e il timore che esprimeva spesso che non ci fosse niente di suo gusto, benché Catherine non avesse mai visto una simile varietà di cibi preparati per una prima colazione, le rendevano impossibile dimenticare, sia pure per un momento, che era un ospite. Non si sentiva affatto degna di un simile onore e non sapeva come ricambiarlo, né favorì la sua tranquillità l'impazienza del generale per il ritardo del figlio maggiore, né la riprovazione che espresse nei confronti della pigrizia del capitano Tilney quando questi fece infine il suo ingresso. L'addolorò la severità del rimprovero paterno, che le pareva sproporzionato all'offesa, e tanto più le dispiacque scoprire che era lei la causa principale della predica, e che quel ritardo veniva criticato principalmente perché costituiva una mancanza di rispetto verso di lei. La si poneva in questo modo in una situazione molto imbarazzante e lei compatì sinceramente il capitano Tilney, anche se niente le faceva sperare che ci fosse da parte di lui alcuna buona volontà di emendarsi. Egli ascoltò il padre in silenzio e non tentò affatto di difendersi, il che confermò il timore di Catherine, che pensava che la vera causa per cui il capitano si era alzato tardi fosse l'aver passato una lunga notte insonne con l'animo inquieto a causa di Isabella. Era la prima volta che si trovava effettivamente in sua compagnia e aveva sperato di potersi ora formare un'opinione di lui, ma finché il padre rimase nella stanza, ne sentì a malapena la voce, e anche dopo egli doveva essere ancora così sconvolto che Catherine non poté afferrare che queste parole da lui rivolte a Eleanor in un bisbiglio. Come sarò contento quando ve ne sarete tutti andati. Il trambusto della partenza non fu piacevole. L'orologio suonò le 10 mentre venivano portati giù i bauli, e il generale aveva invece deciso che per quell'ora avrebbero già dovuto lasciare Milsom Street. Il suo soprabito, invece di venirgli portato perché lo indossasse subito, era stato messo nel calesse in cui doveva viaggiare con il figlio, ma non era stato estratto il sedile di mezzo della carrozza, benché vi dovessero viaggiare 3 persone, e la cameriera di sua figlia aveva talmente riempito la carrozza di pacchi che la signorina Morland non avrebbe avuto spazio per sedersi, e lui era talmente preso da questa preoccupazione quando l'aiutò a salire che Catherine ebbe qualche difficoltà a impedire che il suo nuovo scrittoio portatile venisse scaraventato in mezzo alla strada. Finalmente, comunque, vennero chiusi gli sportelli della carrozza e partirono alla sobria andatura con cui generalmente i 4 cavalli, belli e ben nutriti, di un vero signore, compiono un viaggio di 30 miglia. Questa era infatti la distanza di Northanger da Bath, distanza che sarebbe stata suddivisa in due tappe uguali. Non appena lasciarono la casa, il morale di Catherine si risollevò. Con la signorina Tilney poteva parlare liberamente e, presa dall'interesse per una strada completamente nuova, per l'abbazia che l'aspettava e per il calesse che le seguiva, colse l'ultima immagine di Bath senza il minimo rimpianto e sorpassò ogni pietra miliare prima di quanto si aspettasse. Seguì quindi la noia di una sosta di 2 ore a Petit France, dove non c'era altro da fare che mangiare senza avere appetito e gironzolare senza niente da vedere, e la sua ammirazione per il modo in cui viaggiavano, per l'elegante tiro a quattro, le belle livree degli uomini della scorta che cavalcavano con tanta disinvoltura e i numerosi servitori che li precedevano in groppa ai loro bei cavalli, diminuì un po' per questo inconveniente del viaggio. Se l'atmosfera fosse stata del tutto piacevole, il ritardo in sé non sarebbe stato niente, ma il generale Tilney, sebbene fosse un uomo così affascinante, sembrava sempre costituire un freno al buon umore dei figli, cosicché praticamente nessuno parlò tranne lui. Le sue osservazioni, poi, lo scontento per tutto quello che si serviva alla locanda, la sua impazienza collerica nei confronti dei camerieri, fecero sì che Catherine si sentisse sempre più timorosa davanti a lui, tanto che le sembrò che le 2 ore di sosta diventassero quattro. Finalmente, comunque, venne dato l'ordine della partenza e Catherine fu colta di sorpresa dalla proposta del generale che la invitò a prendere il suo posto nel calesse del figlio per il resto del viaggio. La giornata era bella e lui desiderava che lei potesse ammirare meglio la campagna. Catherine, ricordando l'opinione del signor Allen sui giovanotti e le carrozze aperte, nel sentire questa proposta, arrossì. E il suo primo pensiero fu di declinare l'invito, ma subito dopo ricordò il rispetto che meritava il generale Tilney. Non era possibile che le proponesse qualcosa di sconveniente, così in pochi minuti si ritrovò con Harry nel calesse e si sentì l'essere più felice della terra. In breve si convinse che il calesse era il mezzo di trasporto più bello del mondo. È vero che il tiro a quattro possedeva una certa grandiosità, ma era anche pesante e complicato e lei non poteva perdonargli facilmente di averli fatti fermare per 2 ore a Petit France. Al calesse sarebbe bastata la metà del tempo e i suoi agili cavalli avrebbero potuto correre così velocemente che se il generale non avesse voluto la sua carrozza ad aprire la strada, l'avrebbero potuta sorpassare facilmente in mezzo minuto. Ma i meriti del calesse non erano dovuti tutti ai cavalli. Harry guidava così bene, con tanta calma, senza provocare scossoni, senza darsi delle arie, senza imprecare contro i cavalli. Era così diverso dall'unico gentiluomo cocchiere con il quale poteva paragonarlo. E poi il cappello gli stava così bene e i teli innumerevoli del suo mantello gli davano un'aria così distinta e importante. Viaggiare con lui era certo, dopo il danzare con lui, la felicità più grande del mondo. E a tutti gli altri piaceri si aggiungeva ora quello di sentirsi fare dei complimenti. Egli la ringraziava innanzitutto per sua sorella, per essere stato tanto gentile da accettare di essere loro ospite. Il suo comportamento veniva considerato una prova di amicizia e descritto come qualcosa che meritava autentica gratitudine. La sorella, disse Harry, viveva in una situazione poco piacevole. Non aveva nessuna donna a farle compagnia e a causa delle frequenti assenze del padre, spesso si trovava addirittura sola. Ma come mai? Disse Catherine. Voi non vivete con lei? Oh, Northanger è casa mia solo a metà. Ne ho un'altra a Woodstone dove lavoro, a circa 20 miglia dalla dimora di mio padre, e parte del mio tempo devo necessariamente passarlo lì. Oh, quanto dovrà dispiacervi. Mi dispiace sempre lasciare Eleanor. Sì, ma oltre all'affetto per lei dovete amare tanto anche l'abbazia. A voi che siete abituato a vivere in un'abbazia, non può certo piacere una comune parrocchia. Egli sorrise e disse: Vi siete fatto un'idea molto piacevole dell'abbazia. Oh, ma certo, non è forse una bella dimora antica, proprio come quelle che si trovano nei libri? E voi siete pronta ad affrontare tutti gli orrori che un edificio simile a quelli che si trovano nei libri può presentare? Avete un cuore coraggioso? Sopportano i vostri nervi pannelli, mobili e arazzi? Oh, sì, non credo che mi spaventerai facilmente, perché ci sarà tanta gente in casa. E poi non è rimasta disabitata e deserta finché la famiglia non vi torna ignara senza aver preavvisato il suo arrivo, come avviene generalmente. Certamente no. Non dovremmo farci strada in un atrio debolmente illuminato dai tizzoni del caminetto e non saremmo costretti a preparare i nostri giacigli sul pavimento di una stanza senza finestre, porte e né mobili. Ma saprete di sicuro che quando una damigella si trova per qualsiasi motivo in una dimora del genere, viene sempre alloggiata lontano dal resto della famiglia. Mentre quest'ultima si rifugia comodamente nella propria ala della casa, lei, secondo le regole, viene portata da Dorothy, la vecchia governante, su per un'altra scala e lungo molti tetri passaggi fino a un appartamento che è rimasto disabitato dai tempi in cui vi morì, circa 20 anni prima, un qualche cugino o parente. Ce la farete a sopportare questo cerimoniale? Non vi si riempirà il cuore di tristi presagi quando vi troverete in quella camera tetra, troppo grande e imponente per voi? Illuminata solo dai deboli raggi di un'unica lampada che manda un fievole chiarore, i arazzi raffiguranti figure a grandezza naturale e il letto coperto da un drappo verde scuro o da un velluto viola. Per conferirgli un aspetto ancora più funereo, non proverete un tuffo al cuore? Oh, ma questo non mi succederà, ne sono sicura. Con quanta paura esaminerete il mobilio del vostro appartamento e cosa riuscirete a scorgere? Non certo tavoli, toilette, armadi o cassettoni, ma forse da un lato i resti di un liuto spezzato e dall'altro un'imponente cassapanca che nonostante tutti i vostri sforzi non riuscirete ad aprire. E sul caminetto il ritratto di un bel guerriero i cui lineamenti vi colpiranno in modo incomprensibile, tanto che non riuscirete più a distogliere lo sguardo da lui. Dorothy, intanto, non meno colpita dal vostro arrivo, vi fissa sconvolta e si lascia sfuggire qualche allusione incomprensibile. Per risollevarvi ulteriormente il morale, vi dà motivo di supporre che la parte dell'abbazia in cui vi trovate è senza dubbio infestata da fantasmi e vi informa che non ci sarà un solo domestico a portata di voce. Con queste incoraggianti parole di commiato si ritira. Voi ascoltate le parole dei suoi passi che si allontanano finché l'ultima eco si spegne e quando con il cuore in gola cercate di chiudere a chiave la porta, vi accorgete con preoccupazione crescente che non ha serratura. Oh, signor Tilney, che paura! È proprio come un libro! Oh, ma non può succedere a me! Oh, sono sicura che la vostra governante non è una vera Dorothy. Ebbene, e allora? Probabilmente la prima notte non avverrà nient'altro di preoccupante. Dopo aver superato l'orrore assolutamente invincibile che provate verso quel letto, cercherete di riposare e cadrete per poche ore in un sonno inquieto. Ma la seconda o al massimo la terza notte dopo il vostro arrivo ci sarà una violenta tempesta. Il rombo dei tuoni che sembra scuotere l'edificio fino alle fondamenta si perde tra le vicine montagne e mentre si abbattono sulla casa le paurose raffiche che l'accompagnano, vi sembrerà di distinguere, poiché la vostra lampada non si è spenta, una parte degli arazzi che si agita con maggiore violenza del resto. Incapace naturalmente di reprimere la vostra curiosità in un momento così favorevole per indulgervi, vi alzerete immediatamente e gettandovi sulle spalle una vestaglia, procederete a esaminare questo mistero. Dopo una brevissima ricerca, scoprirete nella tappezzeria un pannello mimetizzato così bene da sfidare la più attenta ispezione. E aprendolo, immediatamente vi apparirà una porta, che essendo assicurata solo da pesanti sbarre di ferro e da un lucchetto, riuscirete ad aprire con poco sforzo e sempre con la lampada in mano la varcherete ritrovandovi in una piccola stanza con il soffitto a volta. No, davvero, sarei troppo spaventata per fare una cosa del genere. Come? Dopo che Dorothy vi ha lasciato capire che esiste un passaggio segreto sotterraneo tra la vostra camera e la cappella di Sant'Antonio, lontana appena 2 miglia, osereste indietreggiare davanti a un'avventura così semplice? No, no. Voi vi farete strada in questa piccola stanza dal soffitto a volta e quindi in diverse altre, senza notare niente in particolare in nessuna. In una forse potrà esservi un pugnale, in un'altra gocce di sangue e in una terza i resti di un qualche strumento di tortura, ma non essendovi in tutto questo niente di insolito, e poiché la vostra lampada sta per spegnersi, ritornerete verso il vostro appartamento. Ripassando attraverso la piccola stanza con il soffitto a volta, comunque, la vostra attenzione verrà attratta da un pesante antico secretaire di ebano e d'oro che non avevate notato prima, benché aveste esaminato attentamente il mobilio. Spinta da un irresistibile presentimento, vi avvicinerete ansiosamente, girerete la chiave e dischiuse le ante cercherete in ogni cassetto, ma all'inizio non troverete niente di importante, tranne forse un gran mucchio di diamanti. Finalmente, comunque, toccando una molla segreta, si aprirà uno scomparto interno. Appare un rotolo di pergamena, lo afferrate, contiene molti fogli di un manoscritto. Vi affrettate con il vostro prezioso tesoro nella vostra camera, ma siete appena riusciti a decifrare: Oh, chiunque tu sia, nelle cui mani cadranno queste memorie della sventurata Matilda, che la vostra lampada si spegne e vi lascia nella più completa oscurità. Oh no, no, non dite così. Beh, andate avanti. Ma Harry era troppo divertito dall'interesse che aveva suscitato per continuare. Non riusciva più a investire della necessaria solennità nell'argomento, nella propria voce, e dovette quindi invitarla a immaginare da sola quali fossero le sventure di Matilda. A quel punto Catherine si riprese, si vergognò di essersi appassionata al racconto e incominciò ad assicurargli che, francamente, per quanto attenta, lei non aveva nutrito il minimo timore di potersi trovare in una situazione simile a quella raccontata. Era sicura che la signorina Tilney non l'avrebbe mai alloggiata in una camera come quella che lui aveva descritto. Non aveva assolutamente paura di niente. Man mano che si avvicinava alla fine del viaggio, Catherine sentiva sorgere nuovamente in lei l'impazienza di vedere l'abbazia, impazienza che la conversazione con Harry su argomenti molto diversi le aveva fatto per un po' dimenticare. A ogni curva della strada si aspettava, presa da reverenziale timore, di poter scorgere le sue mura massicce di pietra grigia che si innalzavano in un bosco di antiche querce, mentre gli ultimi raggi di sole giocavano sui vetri delle alte finestre gotiche, creando splendidi riflessi. Ma l'edificio si trovava così in basso che lei attraversò i cancelli imponenti dell'entrata e si ritrovò appunto a Northanger, senza aver potuto scorgere neppure un comignolo antico. Non sapeva se avesse diritto di sorprendersi, ma c'era qualcosa nel modo in cui erano arrivati che certo non si era aspettata. Oltrepassare delle case coloniche di aspetto così moderno, ritrovarsi così facilmente entro i confini dell'abbazia e percorrere con tanta rapidità una strada liscia e piana di ghiaia, senza incontrare nessun ostacolo, senza motivi di allarme e senza nessuna solennità, tutto ciò la colpiva come qualcosa di strano e di inverosimile. Non ebbe comunque a lungo la possibilità di indulgere in simili considerazioni. Un improvviso scroscio di pioggia che la investì in pieno le rese impossibile osservare altro e concentrò tutti i suoi pensieri sulle condizioni del suo nuovo cappellino di paglia. Si ritrovò così sotto alle mura dell'abbazia, scese in fretta con l'aiuto di Harry dal calesse, trovò riparo sotto il vecchio portico e passò perfino nell'atrio dove l'amica e il generale l'aspettavano per darle il benvenuto. Il tutto senza provare nemmeno un terribile presentimento delle future disgrazie che l'avrebbero colpita, e senza avvertire un solo sospetto per scene di orrore che potessero essersi svolte un tempo entro il solenne edificio. La brezza, a quanto sembrava, non aveva portato i sospiri dell'assassinato, non le aveva portato niente di peggio di uno scroscio di pioggia, e dopo aver scosso ben bene l'abito, era pronta per essere introdotta in un comunissimo soggiorno e poté considerare finalmente dove si trovava. Un'abbazia. Certo, era meraviglioso essere davvero in un'abbazia, ma guardandosi intorno dubitò che da quello che vedeva avrebbe potuto rendersene conto. I mobili erano caratterizzati dalla profusione e l'eleganza tipiche del gusto moderno. Il caminetto che si era aspettata avrebbe presentato l'ampiezza e l'intaglio pesante dei tempi passati. Era semplicemente un Rumford, fatto di lastre di marmo comune, anche se di ottima qualità, sormontato da ornamenti della più graziosa porcellana inglese, le finestre alle quali guardò con particolare speranza, poiché aveva sentito dire dal generale che le aveva mantenute in stile gotico con cura reverenziale, erano ancora più diverse da come la sua fantasia le aveva immaginate. È vero che erano a ogiva, che la forma era gotica, potevano perfino avere il telaio a battenti, ma ogni vetro era così grande, chiaro e terso. Per la sua immaginazione, che aveva sperato fossero riquadri piccolissimi, pesantemente incassate nella pietra, con i vetri dipinti, ricoperte di polvere di ragnatele, la differenza costituiva una grave delusione. Il generale, resosi conto che Catherine girava gli occhi di qua e di là, incominciò a parlare delle dimensioni ristrette della stanza e della semplicità del mobilio, a spiegare che per l'uso di tutti i giorni tutto voleva essere improntato alla massima praticità. Si lusingava comunque di affermare che vi erano degli appartamenti dell'abbazia che non erano indegni dell'attenzione di lei, e stava appunto menzionando la doratura costosa di uno in particolare, quando, tirando fuori di tasca l'orologio, si fermò di colpo, annunciando che mancava non meno di 20 minuti alle 5. Questo sembrò il segnale di commiato, e Catherine si ritrovò sospinta dalla signorina Tilney verso la propria camera, con una fretta che la convinse che a North Anger vigeva la più stretta puntualità. Ripassarono per l'atrio ampio dal soffitto alto e salirono per una larga scala di quercia lucidata, che dopo molte rampe e molti pianerottoli le portò a una galleria larga e lunga. Da un altro lato c'era una fila di porte illuminata dalle finestre che si trovavano sull'altro lato, e che, come Catherine ebbe appena il tempo di scoprire, davano su un cortile quadrato. La signorina Tilney la portò in camera e, dopo essere rimasta con lei appena il tempo per dirle che sperava la trovasse comoda, la lasciò, invitandola con ansia a cambiarsi d'abito il meno possibile.